L'oracolo e l'empio, da Favole, dicendo La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Folle chi spera d'ingannare i cieli, i raggiri dell'uomo Iddio confonde, tutto ciò che il cor serra e nasconde, tutto convien che all'occhio suo si veli. Un pagan che puzzava un po' d'eretico e credeva agli dèi, forse con beneficio d'inventario, per ingannar l'oracolo andò un giorno d'Apollo al santuario. «È vivo o morto ciò ch'io stringo in mano?» disse il pagano per tirare in trappola Apollo e per confondere i miracoli. E in mano aveva un uccellin malvivo, pronto, secondo il caso, a lasciarlo scappar o, piano piano, a soffocarlo. S'ingannò lo sciocco, che Apollo il qual fiutò tosto il tranello. «O vivo o morto ti conosco, allocco», disse. «Agli allocchi serba le tue trappole», e il corbello rimase ancor corbello. È inutile che io aggiunga che certi stratagemmi non si fanno con chi ci vede ed ha la mano lunga. Fine della favola. L'oracolo e l'empio. Questa registrazione è di dominio pubblico.